Bene, vi do il benvenuto. Come ogni lunedì, come ogni settimana, la biblioteca propone un incontro con l'autore e cerchiamo sempre di concentrarci su tematiche di storia legate al territorio. Questa volta però usciamo dal nostro territorio, anche se la tematica ci coinvolge, ed è la presentazione di questo libro di Luca Gorgolini, che saluto qui con noi questa sera e ringrazio di aver accettato l'invito. E saluto anche Vania Zappetti che ci accompagna da anni nelle presentazioni di libri di storia, e il titolo è appunto I dannati dell'Asinara. Quindi facciamo un punto ideale questa sera tra Alto Adige e Sardegna e torniamo indietro di parecchio tempo alla Prima Guerra Mondiale. Ecco. Vi ringrazio, vi ricordo che la biblioteca ha materiale a disposizione per approfondire questi argomenti, quindi non propone solo il libro che viene presentato, ma anche altri strumenti per approfondire e contestualizzare quello di cui si discute. E basta consultare il catalogo oppure rivolgersi ai bibliotecari e alle bibliotecarie che sono sempre a disposizione, oppure consultare in internet il nostro sito. La biblioteca, come vedete, ha scaffale aperto, però diciamo che i 4/5 del nostro materiale è in magazzino. Non deve spaventarvi, non deve inibirvi, perché praticamente siamo abbastanza solleciti nell'andare a reperire quotidianamente quello che ci viene richiesto. No, ma vai tranquillo. Sulla sedia trovate un magazine che ricostruisce i primi 10 anni di attività, una sorta di bilancio sociale, una cartolina per l'invito della prossima iniziativa che avrà luogo giovedì, e infine un dépliant con le informazioni dei servizi della biblioteca. Io vi ringrazio, porto i saluti dell'assessore Tomasini a tutti voi e vi auguro una buona serata. Grazie intanto e cedo la parola subito ai nostri ospiti. Eccoci, buonasera. Prendo la parola io perché il mio incarico è quello di introdurre l'argomento. Prima di tutto chiedo se mi sentite anche in fondo, così non usiamo il microfono, che sentiamo un po' meglio tutti quanti, onde evitare rimbombi. Siamo qui per presentare un libro molto interessante che tratta un argomento particolarmente intenso, che è quello all'interno della Prima Guerra Mondiale, ovviamente tema molto intenso di per sé, è quello del focus su la prigionia, su tutto quello che fu il male che colpì non solo i fronti direttamente, quindi non solo le pallottole, non solo le mine, non solo le mitragliatrici, ma anche le conseguenze indirette, drammatiche, ancora più drammatiche in qualche maniera, che andarono a colpire tutti gli eserciti di tutti i fronti coinvolti nella guerra in sé. La Prima Guerra Mondiale è per tutti passata alla storia come la grande guerra, anche se i suoi numeri probabilmente con la guerra proseguita 20 anni dopo sono differenti, però per tutti fu l'esaltazione del soldato e soprattutto gli anni di necessità di propaganda nazionalista che seguirono alla Prima Guerra Mondiale in Italia hanno fatto della Prima Guerra Mondiale per l'Italia la guerra dove chi moriva non era il morto ma era il caduto, dove la necessità di in qualche maniera sacralizzare lo sforzo fatto da contadini piuttosto che lavoratori, piuttosto che ufficiali, era assolutamente fondamentale allo scopo di togliere la negatività, che è automatica in ogni guerra, ma non si poteva ricordare la negatività della guerra, bisognava esaltarne lo sforzo, soprattutto una guerra che per chi è venuto dopo la guerra in Italia ha significato la ragion d'essere di una vittoria che ha avuto insomma, conseguenze sulla ragion d'essere del governo che seguì. o che seguirono. Un caso specifico è questo trattato da Luca Gorgolini, ci fa capire quanto fossero diverse le genti coinvolte in una guerra di dimensioni mondiali, indubbiamente, ma anche all'interno di pochi chilometri di area. Siamo la storia descritta in questo libro inizia nella Serbia del 1915, nell'ottobre del 1915, dove le armate austro-ungariche e tedesche da nord e con un'operazione a tenaglia sostenute da est-sud-est dalle armate bulgare rientrano in Serbia dopo esserci state un anno prima, averla tenuta per 3 mesi, aver capitolato, l'Austria in ritirata lasciò la Serbia, cacciata dai serbi all'inizio del dicembre del 14, un ponte fatto saltare sulla Sava costrinse o produsse, diciamo così, 40.000 prigionieri, che è un numero enorme, in una volta sola. Queste persone erano in ritirata, non riuscirono a passare un fiume e vennero prese in prigionia dall'esercito serbo. Per l'appunto, una volta rientrata la controffensiva austro-ungarica nell'anno successivo, i serbi furono costretti a spostarsi, a scappare. Per farlo andarono prima in Montenegro verso Niš, per poi andare verso l'Albania in cerca di una fuga geograficamente naturale verso la Grecia. A sud c'erano i bulgari, non potevano scappare verso sud direttamente, dovevano passare per il mare, per la costa. Però se avete presente la geografia dei Balcani, e se ci mettiamo di mezzo anche il calendario, siamo a ottobre nel 15, siamo in mezzo a monti molto elevati, siamo in mezzo alla neve, siamo con l'abbigliamento dell'epoca, siamo senza viveri e siamo un esercito in fuga con 40.000 prigionieri al seguito. Ai prigionieri non viene dato cibo, pochissimo, quello che si trova per strada. La ritirata, mi correggi se sbaglio Luca, dura 2 mesi o 3 mesi, 2 mesi a piedi. Nella sola ritirata muoiono quasi 20.000 persone, delle 60.000 prigioniere serbe, 20.000 erano in precedenza, 40.000 erano quelli fatti dopo la mancata ritirata sulla Sava. Di questi sopravvissuti che arrivano a Valona, 20.000 vengono portati dall'Italia verso la Sardegna, verso la Asinara. Questo perché l'Italia era entrata in guerra nel 15, l'Italia faceva parte dello schema di alleanze con Francia e la Serbia, e la Serbia non poteva trattenere quei prigionieri. In teoria sarebbero dovuti essere consegnati alla Francia secondo gli accordi internazionali dell'epoca, ma l'Italia decide, anche per ragioni, soprattutto per ragioni di ragione di Stato cosiddetta, di mantenere i prigionieri e di utilizzarli semplicemente come elemento di peso nelle trattative che poi possono portare a a un peso, anche lì, a un potere nelle scelte sulla politica balcanica. Ovviamente l'Italia nella prima guerra mondiale guarda l'Adriatico come un mare da conquistare in qualche maniera. C'è la Dalmazia che è italiana, l'Istria è italiana, almeno di gente, di popolazione e di tradizione, e almeno la costa. Quindi l'Italia decide di trattenere i prigionieri e di mandarli all'Asinara, che è un'isola a nord della Sardegna, un'isola grande tra l'altro, sembra piccolina perché a nord della Sardegna, che è un'isola enorme, però insomma è un'isola di una certa dimensione, proprietà del demanio statale italiano dal 1885, proprietà dei Savoia dal 1700, del demanio del Regno d'Italia dall'85, e da quell'anno ha sull'isola un centro di cura, diciamo una specie di ospedale, un lazzaretto in realtà, e un centro di detenzione, situati insomma in un'isola che una volta costruite queste due strutture vede l'evacuazione di tutte le famiglie dell'isola. Nessuno può abitare alla Ginara, solo i detenuti o chi è in cura. Essere in cura in un lazzaretto non vuol dire essersi rotti una gamba, vuol dire avere una malattia epidemica o contagiosa o tale da dover essere confinato. Era anche un'isola storicamente che veniva utilizzata per la quarantena prima dell'approdo in Sardegna da parte di chi veniva dal mare, insomma, e chi non aveva normale approdo sardo. Era un po' in qualche maniera un luogo di detenzione. E così in tre giorni di traversata i 24.000 prigionieri circa che vengono trasportati all'Asinara arrivano lì per rendervi conto della situazione dopo due mesi di traversata di Balcani, fame, stenti, tifo, colera, situazione di drammatica a livello di carenze di bisogni necessari, primari. Si parla di 1300-1600 persone buttate a mare, morte, durante il viaggio in tre giorni. Immaginate che succedesse oggi, cosa succederebbe anche solo, non lo so, sui titoli dei giornali, insomma. Ecco, la cosa che stupisce è che Gorgolini ha il grande pregio di aver sottolineato e averci fatto scoprire è che questo episodio, che è un episodio enorme, in realtà non ha una rilevanza finora, non ha una rilevanza così forte in pochi di noi, anche come dire, persone che si occupano di storia conoscevano questa disavventura enorme. Ripeto, si tratta di 1300 persone morte solo durante il viaggio di tre giorni in nave. Queste persone poi arrivano alla Asinara, fanno sei mesi prima di essere consegnate ai francesi, e in questi sei mesi muoiono altrettante, no di più, muoiono 5-6 mila persone, sempre di malattie collegate alle scarse, alla scarsa situazione sia di igiene che di insomma, possibile nutrizione. Gli estratti più forti, quelli che a me hanno colpito di più, sono le descrizioni, leggendo il libro, sono le descrizioni degli sguardi di questi prigionieri che arrivano e in mezzo alla guerra, in mezzo a un'esperienza che li ha messi di fronte alla morte quotidianamente, in mezzo a fatiche, la prima cosa che emerge dai loro sguardi è la fame, che è come dire, evidentemente ancora una volta il bisogno primario che l'essere umano ha di vedere soddisfatto al di là di ogni appartenenza nazionale, etnica, politica, chiamiamola come vogliamo. Quando l'uomo è ridotto ad essere un animale, escono le cose fondamentali che ne preoccupano l'esistenza. E qui ne abbiamo un caso in proporzioni molto, molto elevate. Adesso lascio la parola all'autore del libro, a Luca, ci spiegherà, e sono domande che gli pongo in anticipo, poi vedremo se avremo modo di fare delle chiacchiere con il pubblico alla fine della relazione. Io in particolare vorrei sapere, dopo aver visto questo libro, adesso mi reso conto di quello che era la situazione, io vorrei sapere come mai, secondo te, l'Italia accetta di tenere questo numero ingente di persone in un luogo che evidentemente e coscientemente non ha la capacità di farlo. Perché è palese che non solo il posto non ha la struttura adeguata per tenere un così vasto numero di persone, ma è pure evidente che chi lo gestiva lo sapeva, lo sapesse. E quindi la mia domanda principale alla fine di questa lettura è perché? E con questo punto interrogativo etico, insomma, quasi, diciamo, cedo la parola a Luca. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio la direzione della biblioteca per avermi rivolto questo invito e ringrazio Vagno per la sua introduzione e per le parole che ha speso, che ha dedicato alla mia ricerca. Allora, innanzitutto una breve premessa. La storiografia nazionale italiana non si è mai occupata in maniera diffusa della prigionia di guerra. È sempre stato un argomento, come dire, che è passato un po' sottotono, per delle ragioni che in realtà non attengono tanto alla ricerca storica in sé quanto alla memoria collettiva di quegli eventi. Diciamo che gli storici e l'Italia, i governi, non hanno mai ricordato volentieri la prigionia di guerra perché non hanno mai ricordato volentieri quelle che sono state le responsabilità dei governi rispetto alla sorte dei prigionieri. Qui mi rifaccio alla sorte dei soldati italiani finiti in mano all'Austria nel corso della Prima Guerra Mondiale, che vennero in maniera consapevole abbandonati dal governo di Roma. No. Le loro sofferenze nei campi di prigionia austriaci dovevano essere un valido deterrente per far sì che chi stava al fronte non si consegnasse agli austriaci, no? Quindi continuasse a combattere. Sonnino e Cadorna quindi volutamente spingono il governo italiano a non fornire quegli aiuti di cui invece i nostri soldati, prigionieri appunto in Austria, hanno bisogno. E la stessa cosa si è poi ripetuta, devo usare il microfono? Chiedo il microfono. Okay. Va bene. Accetto. E la stessa cosa si è ripetuta per quel che riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Mi riferisco in questo caso alla sorte degli internati militari italiani che dopo l'8 settembre del 1943 vennero trasferiti appunto nei lager tedeschi, vennero deportati e appunto internati. Anche in quel caso il governo di Roma, il governo di Vittorio Emanuele di Badoglio da un lato e il governo della Repubblica Sociale, quindi Mussolini, ebbero delle importanti responsabilità sulla sorte e sulla morte di questi soldati, no? Di quei 650.000, 700.000 soldati, tantissimi morirono, no? nei lager appunto tedeschi, abbandonati. E la memoria di quegli eventi, come era accaduto dopo il 1918, viene in qualche modo sepolta, no? Nessuno ne parla più. Da alcuni anni a questa parte invece la storiografia ha ripreso in mano quei temi e si è occupata in maniera più approfondita di far luce sulla sorte dei soldati italiani in mano agli austriaci, ma anche di cercare di capire quel che accade ai soldati austriaci in mano al governo di Roma. La vicenda dei dannati è una vicenda per molti versi limite, no? Almeno è una vicenda limite nel numero dei morti. Chi sono questi dannati? Sono un gruppo di 70.000 prigionieri austriaci, che almeno questo è il numero che viene censito alla fine del 1914 in Serbia, è un numero enorme. Arnaldo Fracaroli, che era il corrispondente di guerra del Corriere della Sera, reso poi celebre per le sue corrispondenze da Caporetto nel 17, definisce questo numero un numero strabocchevole per un paese come la Serbia, che era un paese piccolo, estremamente povero e in alcun modo in grado di far fronte alla sussistenza di quei prigionieri. Quindi 70.000 prigionieri, dicembre 1914. In pochi mesi questi prigionieri si dimezzano, la metà muoiono di tifo, perché la Serbia viene di fatto compressa ai confini e la gran parte della popolazione si riversa nell'entroterra, c'è un sovraffollamento, soprattutto nei centri minori, condizioni igieniche che possiamo immaginarci, non ci sono più generi alimentari, e quindi appunto si diffonde il tifo che in poco tempo fa 35.000 morti tra i prigionieri austriaci, 100.000 tra i civili serbi e 30.000 tra i soldati serbi. Quindi immaginate, tutto questo accade in 3 mesi, siamo all'inizio del 1915. Dopo che l'epidemia di tifo viene debellata, tutto tace per molti mesi. Perché? Perché nel frattempo l'Italia, e questo le cancellerie straniere lo sanno, sta per entrare in guerra, sta per tradire la Triplice Alleanza, sta per firmare il Patto di Londra, quindi sta per entrare in guerra a fianco dell'Intesa. E i serbi decidono di non combattere più, di non pressare più le armate austriache. Per quale ragione? Perché erano perfettamente a conoscenza, come ci ricordava anche Primo Vagna, che negli accordi del Trattato di Londra era previsto che l'Italia avrebbe avuto anche dei territori sulla costa est dell'Adriatico, che invece erano particolarmente, come dire, importante anche per la Serbia, che da sempre auspicava uno sbocco, quindi il progetto della Grande Serbia sul mare Adriatico. Quindi gli austriaci spostano le loro truppe sul fronte italiano e quindi, come dire, in Serbia tutto tace, fino a quando entra in guerra la Bulgaria. entra in guerra la Bulgaria, quindi siamo ai primi dell'ottobre e lì le sorti del conflitto si capovolgono almeno in quell'area dell'Europa. La Serbia non riesce più a resistere, nel corso del 1914 era riuscita a resistere per ben tre volte alle avanzate degli austriaci che erano arrivati fino a Belgrado e i serbi erano riusciti poi a respingerli oltre i confini. In questo caso invece questa mossa tenaglia li costringe a capitolare. E a quel punto lo Stato Maggiore dell'esercito serbo si domanda cosa fare di questi prigionieri. Sono 35.000, abbiamo detto. Inizialmente decide di continuare a tenerli sorvegliati in una sorta di campi di prigionia, perché vuole dare l'impressione alla Francia e all'Inghilterra di poter ancora controllare la situazione, di essere ancora un governo quindi nel pieno delle sue funzioni e con un esercito in grado di contrattaccare. In realtà poi in poche settimane tutto precipita, perché la Serbia non riesce a far fronte sul piano militare all'avanzata degli austriaci, dei tedeschi e appunto dei bulgari. A quel punto decidono comunque di non lasciare liberi questi prigionieri. Per quale ragione? Da un lato c'è il pericolo che questi prigionieri nuovamente armati possano tornare a ingrossare le fila dell'esercito di chi occupa. Dall'altro però decidono che nella ritirata il ruolo di questi prigionieri è fondamentale. Lo ricordava prima Vagna, siamo nell'autunno, nell'inverno del 1915, i serbi sanno perfettamente che tagliata la possibilità di scendere verso sud dovranno ripiegare prima in Macedonia, in Albania, ancora prima in Montenegro, e quindi nella necessità di dover superare le montagne, avendo a seguito centinaia di migliaia di civili serbi, decidono di mandare avanti questi prigionieri per liberare i sentieri dalla neve e dal fango, per rendere più veloce la ritirata. Tra questi prigionieri, quindi abbiamo detto circa 35.000, 600 sono ufficiali e le loro condizioni tutto sommato sono abbastanza buone, perché riescono ancora ad avere cibo, alimentazione nel corso della ritirata. Disastrosa invece è la condizione della truppa, dei soldati semplici. Quindi praticamente non hanno cibo, non hanno divise in grado per poter far fronte ai rigori del freddo, insomma al clima di quel momento. E vengono anche maltrattati, evidentemente. La fretta di rendere veloce la fuga spinge anche i serbi a commettere molte violenze nei confronti di questi soldati. Guardate bene che questi soldati si erano macchiati nell'estate del 1914 di violenza a loro volta nei confronti della popolazione serba. La commissione d'inchiesta che venne poi messa in piedi dopo Versailles nel 1918 e a seguire verificherà appunto queste violenze, quindi stupri, saccheggi dei villaggi serbi, delle vere e proprie esecuzioni di massa in molti villaggi. E quindi i serbi tendono a scaricare la loro vendetta su questi, in qualche modo, in questo caso sventurati, che a loro volta prima si erano macchiati di questi crimini. A questo punto però entra in gioco nuovamente l'Italia. Perché? Diversamente da quello che un po' la storiografia ha anche sempre sottolineato sulle cause dell'ingresso in guerra dell'Italia, non bisogna mai dimenticare che l'Italia entra in guerra per cercare delle conquiste territoriali, per entrare nel novero delle grandi nazioni. Questa è la grande aspirazione che ha Sonnino. E Sonnino è il ministro degli esteri, ma è un ministro molto potente all'interno del governo Salandro. E lui è convinto che conquistare ad esempio l'Albania è importante non solo per controllare l'Adriatico, ma sa perfettamente che l'Albania è una porta d'accesso ai Balcani e può diventare molto utile per l'espansione commerciale dell'Italia. Quindi alla fine del 1914 rompe gli indugi e manda a Valona un corpo di spedizione militare. Lo fa perché in quel momento l'Italia è ancora neutrale, ha il via libera delle altre truppe, delle altre nazioni che le consentono di arrivare in Albania e occupare Valona ufficialmente per reprimere quella che era una lotta intestina tra le tribù albanesi. Quindi ci sono alcune centinaia di uomini a Valona. Quando l'anno successivo, nell'ottobre del 1915, l'esercito serbo in fuga e al suo seguito, anzi avanti a sé, spinge questi prigionieri, Sonnino decide di intervenire nuovamente. Dovevano intervenire la Francia, l'Inghilterra, che erano gli alleati della Serbia, ma Sonnino non vuole che altre nazioni arrivino lì nei Balcani. Quindi va contro il parere di Cadorna, che voleva che non venissero spostate le truppe dal fronte militare all'Albania, manda altri uomini, convinto che il salvataggio dell'esercito serbo gli avrebbe garantito una carta importante da giocare poi in sede diplomatica alla fine della guerra, per costringere i serbi ad accettare l'espansione dell'Italia sulle coste adriatiche e per tutto sommato avere una posizione di maggiore importanza al tavolo delle trattative. E così accade. Accade quindi che i soldati italiani dall'Albania salgono verso il nord e prendono in consegna quel che resta di questi prigionieri austriaci, oltre naturalmente a portare in salvo quel che rimane invece dei civili e dei prigionieri serbi. Io voglio leggervi un brevissimo passaggio di una testimonianza, in questo caso di un soldato ceco, di un ufficiale, che racconta quel che accade. Lui riesce a salvarsi in maniera tenace, nonostante la fame, ogni giorno riporta sul suo diario delle impressioni. Poi arriverà appunto alla Sinara, racconteremo la storia che segue, e al suo ritorno però appunto consegna al figlio e poi seguirà al nipote questo diario. Ecco quello che lui scrive a un certo punto. Siamo l'11 dicembre 1915. Lungo la strada c'erano dei cavalli morti. Ci siamo avventati sopra gli animali come se fossimo un branco di lupi. Abbiamo staccato dei pezzi di carne, abbiamo acceso dei fuochi e li abbiamo affumicati. Eravamo stati salvati da cavalli morti. Quel pezzo di carne, quasi cruda, annerita dal fumo, mi sembrava più buono della carne di maiale. Abbiamo anche cotto qualche pezzo di carne da tenere come riserva. Questa è la scena. Ognuno, sporco di sangue, è intento a tagliare e strappare. Uno sta cercando il cuore, un altro sta tentando di rompere la testa. Gli occhi di tutti sono pieni di gioia. Oggi ci sentiamo sazi come da molto tempo non ci capitava. Sfortunatamente, molti hanno pagato con la morte la loro voracità. Più avanti, lungo la strada, ogni 10 passi ci si imbatte nel corpo di un austriaco o di un serbo, che scomparirà qui, non identificato. E i suoi cari attenderanno a casa invano il suo ritorno. Quindi si nutrono di questi animali morti, ma non solo. A un certo punto ci sono delle relazioni in questo caso dei sanitari italiani, che descrivono un aspetto che è davvero crudo, cioè il fatto che si siano sviluppati dei casi di antropofagia tra questi prigionieri, pur di salvarsi. Quando arrivano in Albania vendono tutto agli albanesi, ma quando gli albanesi, come dire, non hanno più soldi o loro non hanno più nulla da dare, ci sono appunto, si verificano anche dei casi di antropofagia, cioè si mangiano i cadaveri dei soldati, dei compagni morti. 24.000 quindi arrivano a Valona, abbiamo detto 35.000 erano partiti dalla Serbia, 24.000 quindi 2 mesi dopo arrivano al porto albanese. E lì che cosa accade? Accade che i sanitari italiani inviano alle truppe italiane in Albania un decalogo preciso, dove al primo punto si vietava di far salire a bordo delle navi italiane soldati austriaci malati di malattie infettive. Occorreva tenerli in Albania, non trasferirli né sulla penisola né appunto sulla Sinara, in alcun modo. Invece quando il colera si diffonde, i generali italiani che sono in Albania decidono che non era opportuno mettere a rischio e repentaglio la vita dei soldati italiani, perché il colera si stava diffondendo sul porto di Valona. E allora vengono caricati tutti, in migliaia vengono caricati su queste navi e fatti partire alla volta della Sardegna. Questi prigionieri non dovevano finire in Italia, dovevano essere consegnati ai francesi, ma Sonnino ancora una volta interviene sul piano diplomatico e decide di non consegnarli ai francesi. Perché? Siamo nel dicembre del 1915, l'Italia è ormai in guerra da 6 mesi, circa 30.000 soldati italiani sono già in mano del governo di Vienna, e Sonnino non vuole perdere l'occasione di presentare all'opinione pubblica 30.000, 24.000 soldati austriaci, quindi come dire un bottino di guerra del tutto inaspettato. I sanitari italiani, in maniera chiara e inequivocabile, gli dicono che quei soldati non possono essere trasferiti sulla penisola, perché altrimenti il colera avrebbe potuto contagiare anche la popolazione civile italiana. Allora si sceglie o Lipari o la Sinara, e la scelta ricade sulla Sinara, un'isola più grande. Ma le condizioni erano chiare: questi prigionieri dovevano arrivare 3.000 alla volta, dovevano rimanere sull'isola per 10 giorni e una volta risanati dovevano essere spediti a Santa Maria Capovetere, in provincia di Bari, dove c'erano dei campi di prigionia già allestiti in grado di far fronte alle loro necessità. In realtà, come vi ho detto prima, i generali italiani in Albania decidono di non tener conto di queste prescrizioni, tutti questi soldati vengono fatti salire, tra di loro molti sono malati di colera. Queste navi partono, la traversata dura 3 giorni e tra il 15 dicembre e il 31 dicembre 20.000 prigionieri vengono portati sulla Sinara. Arrivati là, che cosa accade? Là ci sono dei giovanissimi soldati italiani mandati a presidiare l'isola, del tutto inesperti, non ci sono tra loro generali, non ci sono tra loro medici e soprattutto sull'isola non ci sono strutture. La Sinara, c'era a nord della Sinara la colonia penale di cui parlava Vagna, a sud invece questa stazione sanitaria, ma che era in grado di ospitare solo 500 persone, ne arrivano 20.000. A quel punto i carabinieri e i militari italiani decidono di non far scendere questi prigionieri, perché non hanno tende, non hanno viveri, sulla Sinara non c'è acqua potabile. Vengono tenuti sulle navi, pensate, una settimana, due settimane, 20 giorni, a quel punto il colera si propaga. Le navi non fanno altro che lasciare la rada dell'isola e spostarsi al largo per buttare a mare i cadaveri, 1500, fintanto che poi, per forza di cose, perché a bordo i nostri militari non riescono più a controllare la situazione, vengono fatti sbarcare. Vengono fatti sbarcare, ma in condizioni, come dire, di assoluta insufficienza sul piano organizzativo. Vi ho detto prima, non c'erano medicinali, non c'erano medici. Pensate che il primo pranzo caldo viene somministrato ai prigionieri solamente a metà gennaio, quindi oltre due, tre settimane il loro arrivo. Non ci sono tende a sufficienza per tutti questi soldati, non ci sono divise. Vengono messi dentro le tende che possono ospitare tre o quattro soldati, sei, sette uomini, molti malati di colera. E quindi il colera, come dire, ha vita facile, no? In poche settimane ne muoiono altri 6.000, tra il gennaio e la metà del febbraio del 1916. Tutto questo nonostante che i sanitari italiani inviassero telegrammi a Roma chiedendo di fermare questo trasferimento, che era diventato un vero e proprio esodo a quel punto. Ma a Roma, come dire, il governo, per una sorta di ragion di Stato, decide che comunque non si poteva fare altrimenti. È evidente che questa guerra, che questa vicenda è una vicenda limite per il numero dei morti, ma è esemplare per capire il meccanismo di ciò che avveniva nelle cancellerie e nei governi. Da un lato l'impreparazione a gestire questa massa di prigionieri, ma dall'altro anche una responsabilità politica precisa. Il libro si articola attraverso, l'ultima parte è dedicata alla vita di questi prigionieri sull'isola. Il libro si costruisce attraverso una serie di testimonianze inedite, dei superstiti, ma non solo, anche di documenti ufficiali, che sono dei veri e propri atti di accusa, recuperati tanto all'archivio segreto vaticano, quanto all'archivio della Marina Militare, dello Stato Maggiore dell'Esercito, da cui si capisce chiaramente come molti di quei soldati li si sarebbe potuti salvare, se solo fossero stati mandati in Francia e non su un'isola deserta, in quel modo, con quella tempistica, senza alcun tipo di strumenti. Alcuni di loro impazzirono. Io qua ho recuperato anche le cartelle cliniche di questi soldati che poi finirono a manicomi di Sassari, quindi in Sardegna. Immaginate, dopo aver vissuto quella marcia della morte, no, dalla Serbia a Valona, dopo aver vissuto questo trasferimento, dopo aver vissuto la permanenza su un'isola, che tra l'altro diventa, anche per chi riesce a sopravvivere all'epidemia, la vita diventa molto difficile lo stesso. Vi dicevo prima che sull'isola, solitamente quando si parla dei campi di prigionia si pensa alla fame, nel caso della Sinara oltre alla fame c'è anche la sete. Ci sono i diari di questi prigionieri che raccontano appunto di bere l'acqua delle pozzanghere, di bere l'acqua del mare, insomma di non saper far fronte a quella condizione in cui si erano venuti a trovare, ma diventa anche un microcosmo di una violenza diffusa, perché sono 24.000 uomini appartenenti sì all'impero asburgico, ma ci sono italiani, ci sono appunto soldati che provengono dall'Alto Adige, ovviamente all'epoca inquadrati tra le file del ton dell'esercito italiano, ovviamente non c'erano cechi, c'erano in qualche caso serbi, c'erano ungheresi, austriaci. E le tensioni nazionalistiche si fanno sentire, no? Questi campi, questi attendamenti vengono divisi in base a nazionalità, ma la violenza è comunque diffusa e chi fa parte, chi non riesce a inserirsi all'interno di un gruppo più numeroso fatica a vivere la quotidianità sull'isola. Ci sono diversi tentativi di suicidio e molti, appunto, come dicevo, finiscono anche in manicomio. L'ultima parte del libro appunto parla di questa quotidianità molto difficile, dove loro cercano comunque di recuperare una sorta di normalità, addirittura riescono anche a stampare un giornalino parlando delle loro disgrazie, delle loro sventure. Provano a mettere in piedi anche alcune iniziative culturali come un coro, addirittura come una squadra sportiva, ma si tratta di una vita di stenti, molto di grande sofferenza. E poi il paradosso è che a giugno di 1916 il sonnino li lascia partire per la Francia. Questa è l'assurdità, no? Li tiene sull'isola, ne fa morire 5-6 mila e poi a giugno comunque li cede, la loro custodia la cede comunque alla Francia. È una posizione assurda, tutte giocate all'interno dello scacchiere diplomatico. Quel campo di prigionia, quindi nato in maniera casuale, però diventa il più importante campo di prigionia italiano. Cioè, dopo il giugno del 1916, quegli attendamenti continuano ad essere mantenuti in piedi e l'Asinara continua a essere il campo più affollato del Regno d'Italia. Lo sarà soprattutto dopo la rotta di Caporetto, quando vengono mandati appunto sull'Asinara molti soldati austriaci fatti prigionieri, perché era imprudente tenerli al nord, non solo perché c'era la pressione dell'esercito austriaco, ma anche perché le loro testimonianze sul il poco felice esito della guerra condotta dagli italiani avrebbe potuto indebolire il fronte interno. E quindi l'Asinara continua, quindi un campo di prigionia dove non ci sono baracche, dove non ci sono strutture murarie, continua a essere il più affollato campo di prigionia italiano della prima guerra mondiale. È una vicenda questa che è stata accuratamente tenuta all'oscuro, le testimonianze di cui vi ho parlato sono testimonianze inedite, eppure il comandante del campo alla fine degli anni 20 viene incaricato di redigere una sorta di diario su quello che era stato quella vicenda. E io voglio leggervi, perché è significativo, quello che lui scrive nell'aprile del 1916, è una relazione che poi appunto lui riporta alla fine degli anni 20 in questa pubblicazione. Lui scrive, alla fine appunto di aprile, le malattie, si legge nelle prime righe del documento, hanno durante questi mesi prodotto nelle file dei prigionieri di guerra qualche vuoto. Ma la oculatezza, la solerzia, l'interessamento ed il non comune valore professionale del personale sanitario hanno troncato principi di gravi malattie che senza la virtù dei medici avrebbero potuto crescere e dilagare, date le condizioni di alloggiamento delle truppe prigioniere ed il loro sconfortante stato fisico, dipendente dai lunghi e gravi disagi sofferti. Quindi per il generale Ferrari, come dire, le malattie hanno prodotto semplicemente qualche vuoto. Invece le cose erano andate in maniera molto diversa. Ad assistere questi prigionieri non c'erano altro che i loro connazionali medici, perché in qualche caso anche i medici italiani si erano rifiutati, ovviamente, per non correre il rischio di contrarre il colera. Ci sono addirittura le relazioni degli emissari del Papa, di Benedetto XV, no? Relazioni molto poco, come dire, celebrative, perché parlano di questi frati che arrivati sull'isola a tempo qualche ora se ne scappano, definendo l'isola un vero e proprio girone infernale da cui bisogna scappare, no? E quindi l'isola l'Asinara diventa l'isola dei calorosi e diventa in poco tempo l'isola della morte. Però ecco, nonostante questi numeri, nonostante un ossario monumentale che c'è sull'isola, nonostante tutto, fino a qualche tempo fa, voglio dire anche fino a questo libro, quella vicenda era stata accuratamente dimenticata. Anzi, le responsabilità del governo sono state tradotte nelle relazioni dei generali, come nella relazione del generale Ferrari, come una sorta di intervento umanitario, cosa che invece non fu in alcun modo. Ora, se ci sono domande o altro, io vedo scritto sommariamente il contenuto del libro. Se ci sono domande o curiosità... Particolari... 70.000, alla fine, quanti se ne sono salvati? E appunto, abbiamo detto 70.000 a dicembre 1914, 35.000 a aprile 1915, 24.000 a dicembre 1915, quelli che arrivano a Valona, altri 7.000 ne muoiono, cioè vengono trasferiti in Francia 16.000, da 70.000 a 16.000, nel giro di pochi mesi. E di quei 16.000 che sono andati in Francia, si sa niente, diciamo? In pochi, perché poi anche in Francia ci sono delle epidemie, tra l'altro il 1917 è un anno devastante per tutte le nazioni in guerra e i prigionieri sono i primi a farne le spese, quindi ne ritornano a casa davvero pochissime migliaia, quindi il cerchio si chiude da 70.000 con poche migliaia che di sopravvissuti che rientrano appunto. Si è stimato quante persone sono passate nell'arco della guerra attraverso la Asinara? Ma è difficile fare una stima, però ci sono testimonianze che parlano, ad esempio, già alla fine del 1916, anche nel 1917, di oltre 20.000 presenze. Quindi se le moltiplichiamo fino al 1918 capiamo che sono, mese per mese, insomma, sono tantissime. Ora quantificarle però diventa estremamente complicato. Tra l'altro poi l'Asinara viene mantenuto attivo anche dopo la guerra, dove finiscono anche molti trentini reduci dai campi di prigionia russi, se non ricordo male, vengono appunto trasferiti sulla Asinara per una sorta di rieducazione, prima di entrare a far parte del Regno d'Italia. E quindi quel campo di prigionia che non doveva assolutamente nascere diventa invece uno dei campi di prigionia più importanti. Le strutture della Asinara negli anni rimangono... Questo è l'altro paradosso, cioè che nonostante gli interventi della commissione prigionieri italiana che spinge affinché vengano costruiti dei baraccamenti, si continua invece a mantenere in piedi delle tende, delle misere tende. Ora, chi conosce la Asinara sa che è un'isola straordinaria, ma c'è una vegetazione assolutamente spoglia, d'estate diventa, io ci sono stato, insomma diventa veramente impossibile viverci, vi ho detto prima che c'è carenza d'acqua, c'è un caldo insopportabile, ed inverno invece continuamente battuta dai venti, continuamente esposta, e quindi queste tende insomma non resistevano, va da sé, insomma, e quindi molti si ritrovavano veramente a passare l'inverno senza quasi alcun tipo di riparo, per così dire. Poi molti vengono mandati anche al lavoro, quando l'Italia decide nell'estate del 1916 di far comunque lavorare i prigionieri. Vengono mandati nelle miniere di carbone sarte, nelle campagne, nella Sardegna, ma insomma la gran parte comunque rimane sull'isola, perché comunque la mole è enorme, e d'altra parte dobbiamo anche immaginare che non arrivavano notizie, perché era un'isola, tra l'altro anche molto isolata, no? E i prigionieri che stanno sull'isola descrivono nelle loro lettere questo senso di isolamento. Si parla della sindrome del filo spinato, per parlare di coloro i quali vengono rinchiusi nei campi di prigionia, c'è questo appunto senso di isolamento opprimente, ma nel caso della Asinara tutto viene amplificato, perché l'orizzonte è solamente, c'è solo mare, e quindi, come vi dicevo prima, questo isolamento finisce anche per esaltare quelle che sono le violenze diffuse sull'isola, no? Diventa un microcosmo a parte, che sfugge un po' anche in buona sostanza ai controlli, agli organismi internazionali. Tant'è che anche il numero di coloro che finiscano a Sassari, a quello che era il manicomio, insomma, oggi lo chiamiamo centro per cura mentale, però è in una percentuale piuttosto elevata, insomma, rispetto ai presenti all'Asinara, perché vi immaginate questo contingente enorme di persone in una situazione del tutto inadeguata, certo. Non leggermente, ma completamente, cioè proprio era l'esempio dell'inadeguatezza fatto a situazione, che si trovano a dover sopravvivere dopo aver fatto quello che hanno fatto prima, perché non arrivano presi da casa e messi lì a fare un esperimento, vengono da 2 mesi di marcia, probabilmente alcuni 6-8 mesi di prigionia precedente, in uno stato, certo, come si diceva all'inizio, relativamente piccolo per contenere 40.000 prigionieri in tempo di guerra, c'è carenza di cibo per se stessi, è difficile trattare allo stesso modo i prigionieri. Poi ci sono le convenzioni indubbiamente che riguardano l'onesto trattamento dei prigionieri, ma sono convenzioni. Si sa che i primi a soffrire durante il periodo di guerra all'interno di tutti gli attori, insomma a parte il fronte ovviamente, sono i prigionieri stessi. Soprattutto, voglio dire, gli ufficiali sono trattati in maniera diversa di sicuro, i non ufficiali sono persone da mettere davanti a una marcia per battere la strada, per spalare la neve, per se cascano di stenti spostarli. E questo penso che serva anche a tutti noi per dare ancora una volta un senso alla dimensione di completo orrore che ha la guerra in sé, perché non dobbiamo cercare un giusto e uno sbagliato, come si diceva prima. Gli stessi prigionieri sono trattati con vendetta da parte dei serbi per quello che i serbi hanno subito in precedenza, e se andiamo all'indietro andiamo a una serie di precedenze incredibili, perché finché, voglio dire, il tentativo è quello di sistemare dei torti subiti dalle generazioni precedenti, il processo diventa infinito, e questo è una esemplificazione di un caso specifico di, possiamo indubbiamente dire, particolare sfortuna per queste persone, perché la maggior parte, ripeto, viene fatta prigioniera perché salta un ponte. 40.000 di questi 70.000 sono prigionieri perché nella loro ritirata da Belgrado l'inizio di dicembre del 14 semplicemente non possono, non riescono a passare un fiume, fisicamente non possono. Viene fatto saltare un ponte dai serbi e questi in questa massa enorme rimangono incastrati lì. E da quel momento parte questa odissea, che insomma, definire odissea penso sia una delle etichette più adeguate si possa affibbiare a queste persone. Per gli interessati alla storia locale, io mi sono segnato quali sono state le partecipazioni delle persone della nostra regione sul fronte serbo nel 14, però non in particolare nel 15, perché più o meno comunque i contingenti erano mandati inizialmente all'inizio della guerra, insomma. E qui abbiamo il reggimento, il primo e il secondo reggimento del Landsturm, che viene mandato in Serbia, e quindi sia tedeschi che italiani che ladini. E viene mandato il secondo, i mitraglieri del secondo reggimento dei Landschützen, questo è l'inizio. Mentre sei mesi dopo viene mandato ancora il battaglione 27 del Landsturm, che assieme, non da soli, assieme a tante altre, voi sapete che l'esercito austro-ungarico era formato da tutte le gente che formavano l'impero austro-ungarico, insomma, ufficialmente 7, ma probabilmente 7.000, tra questi anche persone di qua, del Trentino in particolare si sa che gente della Val Sugana del Primiero che viene mandata sul fronte serbo, probabilmente per una all'epoca ritenuta capacità particolare a gestire le situazioni, chiamiamole boschive, insomma, a maneggiare il legno e a queste abilità che erano il territorio scenografico principale di Serbia Bosnia dell'epoca, insomma. Ecco. E niente, appunto, quindi la mia domanda con cui ho terminato l'introduzione è stata risposta, nel senso che insomma, è pura e semplice ragione di Stato quella che ha, certo, fatto sì che venisse messa in opera questa carneficina, perché è evidente che insomma, lo si è fatto sapendo a cosa si andava incontro, più o meno. Non, l'epidemia non è nata lì, queste persone sono state trasportate lì in condizioni già pietose e lì non c'era niente che fosse adeguato ad accoglierli. E quindi non avevo ancora considerato questa cosa dell'assurdità del cerchio che si chiude con la consegna alla Francia sei mesi dopo. Quella è l'assurdità, vabbè. Perché cioè, tutto lo sforzo fatto, anche come dire, messo sulla bilancia in previsione di un futuro sviluppo positivo per la nazione, perché mi pesa dal punto di vista diplomatico, va a farsi benedire in sei mesi, perché comunque le stesse persone a cui non volevo darli prima sono quelli che, a cui li consegno adesso, insomma. Il governo in carica rimane lo stesso in questi sei mesi. Sì. Scusi, ministro. Purtroppo non mi ritrovo nella mia ignoranza, non mi ritrovo coi tempi. Io ho in mente l'Italia, la guerra del 15-18, no? Sì. Voi parlate del 1914, sì. Vi volete un po' chiarire, sì, la posizione dell'Italia nel 1914, qual era? Ossia, questi prigionieri sono stati ritenuti prigionieri dell'Italia nel 15, però nel 14 l'Italia si trova già là, abbiamo detto prima, cioè, che titolo? L'Albania è attraversata da una serie di conflitti tra le varie tribù, siamo alla fine del 1914 e l'Albania è per Sonnino, l'intero governo italiano, un territorio da conquistare, approfittando del fatto che l'Italia è ancora formalmente una nazione al di fuori della guerra, sì, ecco, ottiene sia dalla Triplice Alleanza che dall'Intesa la possibilità di intervenire in Albania per reprimere questi conflitti interni. Quindi viene mandato un corpo di spedizione di alcune centinaia di uomini a occupare Valona e a controllare quello che era il più importante porto albanese, quindi cercare di gestire la situazione albanese sul piano politico. Quindi l'Italia si trova già lì, in qualche modo, con la sua bandiera. L'anno successivo quando la Serbia viene invasa e comincia la discesa verso il Montenegro e verso l'Albania, il governo italiano decide di mandare altri uomini per non fare intervenire altre nazioni in quella parte d'Europa, perché preferisce essere l'unica nazione a gestire i soccorsi, essere in qualche misura l'unica nazione presente, no? A gestire la situazione in tutto e per tutto. Da alla 15, fine del 1915, sì. L'Italia entra in guerra, sappiamo, no? Quindi maggio, esatto. Il 15. L'aprile, appunto, trattato di Londra, e poi nel maggio l'ingresso in guerra vero e proprio. Quindi l'Italia è già da alcuni mesi una nazione in guerra. Però quando sono stati fatti i prigionieri, questi 70.000 ormai, diciamo, l'Italia era ancora fuori. L'Italia era ancora fuori. Certo. Perché la Serbia che fa i prigionieri, la Serbia che combatte contro appunto Austria-Ungheria e Germania, e Bulgaria che si aggiunge poi al tutto dopo, e l'Italia è... È la Serbia che fa prigionieri dei serbi? No, no, o austro-ungarici. Sono austro-ungarici. Gli austriaci entrano in Serbia, sì. Gli austro-ungarici entrano in Serbia nel settembre del 14. Stanno in Serbia settembre, ottobre, novembre, inizio di dicembre, ma il 3 dicembre, il 4 dicembre. Sì, poi Belgrado viene liberata. Prendono Belgrado, gli austriaci, chiamiamo austriaci per dire tutti quanti, insomma. Prendono Belgrado, ma i serbi resistono e poco dopo la presa di Belgrado fanno la controffensiva, costringono alla ritirata tutto l'esercito austro-ungherese occupante, che proprio per questo salto del ponte sulla Sava, per la stragrande maggioranza, non riesce ad andare in ritirata. Quindi i serbi prendono gli ormai ex occupanti e oggi prigionieri austro-ungheresi, loro sono prigionieri di guerra e loro vengono trasportati in questa marcia della morte, cosiddetta, viene proprio virgolettata e chiamata marcia della morte, che va da Belgrado, dalla Sava, fino a Valona, passando per prima Montenegro, appunto Niš, e Albania, fino ad arrivare nello scacchiere balcanico. Poi, per quello che riguarda anche gli stati che possiamo chiamare cuscinetto intorno alla Serbia, che era interesse italiano non avere sul mare, la Serbia non doveva avere sbocco sul mare, perché avrebbe avuto ovviamente una importanza economica enorme poter avere la gestione di uno sbocco sul mare per la Serbia. La Serbia in sé non era tanto temuta, pericolosa in quanto tale, ma era temuta la sua grande alleata, la grande madre Russia, che non ha sbocco sull'Adriatico, e grazie alla Serbia ce l'avrebbe avuto. E quindi l'Italia prima di tutto dal 96 mi pare è in matrimonio con Elena di Montenegro, è in Montenegro, ok? E poi l'Albania, che è soggetta a guerre interne per tutta la decade fino alle guerre balcaniche del 12-13, è in sommovimento totale, crea danno proprio a livello economico, politico, in quella particolare situazione, e il consesso internazionale concede all'Italia, che si propone come gestore di quella situazione, di farlo, perché semplicemente di tutte le potenze dell'epoca era quella geograficamente più vicina a poter gestire la cosa, fuori dalla contesa, e in quel momento libera da altri impegni su altri fronti. Insomma. Il Kosovo non c'era il problema. Kosovo ci sono passati per il Kosovo. C'era il problema, aveva un po' meno di riflettori addosso, probabilmente. Il problema c'era, sicuramente c'era. Erano problemi che stavano in qualche maniera enfatizzandosi in quel periodo lì, perché è il periodo in cui sicuramente tutte tutte le passioni nazionali o nazionaliste vengono esaltate e producono da una parte pregi, dall'altra parte difetti, insomma. Ci sono testimonianze di trentini su questo fatto? Pare di sì. Ce ne sono. Cioè, l'Italia sì. Ha un trattamento particolare sui trentini che erano di lingua italiana? No. O no? No, vengono però tenuti sull'Asinara. Non vengono trasferiti in Francia, ad esempio. Vi do per darvi anche un po' l'idea di chi erano. Viene fatto, appunto, una volta passata l'epidemia di colera, viene fatto un censimento per capire chi sono questi prigionieri. Ci sono 4.870 serbi, 3.300 boemi, 2.380 ungheresi, 2.317 croati, 1.393 tedeschi, 897 rumeni, 443 polacchi, 294 russi, 299 italiani. 187 bulgari, 132 slovacchi, 93 sloveni, 50 turchi, 9 greci e altre nazionalità. Quindi voi pensate veramente come... Cioè erano triestini e trentini. Sì, e quando arrivano sull'isola vengono anche sottoposti degli interrogatori, i soldati, i prigionieri, diciamo, di nazionalità italiana, che li consideravano tali, per ricostruire appunto le vicende in Serbia rispetto agli stupri commessi, alle violenze commesse dai soldati austriaci. Vengono appunto interrogati gli italiani, diciamo così, perché vengono considerati fonti attendibili. Quindi nel libro vengono anche riportati gli stralci di questi interrogatori, che sono anche questi stati trovati in maniera casuale, perché erano nell'archivio di famiglia del tenente Garandini, che era un tenente italiano di prima nomina, arrivato sull'isola, a cui viene affidato di punto in bianco il compito di interrogare questi soldati per capire quella che era stata l'esperienza precedente al trasferimento sull'isola. E da lì vengono fuori tutta una serie di conferme rispetto a quelli che sono anche i contenuti delle relazioni dei documenti ufficiali, no? Della Marina, dell'Esercito. Quindi c'è, stranamente, questo non tende molto spesso a capitare nella ricerca storica, invece qui c'è una coincidenza tra quello che è il contenuto dei diari, delle memorie e i documenti ufficiali, no? Tutti tendono, pur scaricando responsabilità gli uni sugli altri, a dare il quadro comunque di una responsabilità complessiva che c'è da parte del governo. È interessante leggere come i sanitari italiani si schierano contro lo Stato Maggiore dell'Esercito italiano, come ci siano lettere del generale Martini che chiede a gran voce di fermare questo trasferimento, di fermare questa mattanza. E appunto, rispetto invece a quegli interrogatori, gli italiani hanno la possibilità di raccontare per filo per segno anche quelle che erano state le violenze che avevano subito da parte degli ungheresi e degli austriaci, perché erano quelli trattati peggio, sostanzialmente erano quelli che erano mandati avanti quando c'era da fare anche le avanzate, erano quelli a cui venivano affidati anche i compiti più delicati quando c'era da entrare nei villaggi serbi. Insomma, non è che godessero di grande fortuna, e quando arrivano sull'isola Asinara non godono di privilegi, assolutamente. Assolutamente. Io so anche che dei trentini civili, sì, passati per austriacanti, quando è arrivato l'esercito italiano, l'hanno mandati alla Asinara. Sì, sì, sì, sì, sì. Questo dopo? Sì, sì, sì, dopo il 1918, sì, sì. Ma anche prima, quando nelle terre occupate dall'Italia, quelli passati per austriacanti venivano mandati. Venivano spediti sull'Asinara. Beh sì, era un posto totalmente isolato, dove non da cui non si potevano far sentire la loro voce, evidentemente. Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Temuti come traditori dalla madre patria Austro-Ungheria e temuti come traditori dalla sorte, esatto. Prima erano perseguitati dagli austriaci perché ritenuti italiani, successivamente perché poco italiani, e sono costretti a porgere l'altra guancia comunque. Certo. La Asinara come è trattata? È una riserva naturale? Oggi? C'è ancora il penitenziario? No. Il supercarcere è stato smantellato ormai parecchi anni fa, è un parco nazionale dove stanno cercando anche di ricostruire i segni di questi campi di prigionia. No, naturalmente all'epoca l'acqua veniva portata con delle cisterne, perché ripeto, le sorgenti erano minime e l'acqua potabile era davvero scarsa. Poi sono stati migliorati i sistemi di approvvigionamento anche dall'acqua piovana, insomma sono stati fatti altri interventi, però all'epoca effettivamente non era sufficiente durante il periodo invernale che da Porto Torres non potessero arrivare le navi con l'acqua, che questi stavano giorni e giorni senza acqua potabile. Io sto leggendo un libro sui confinati, anche quello era un'isola dove sono stati mandati i confinati nel tempo fascista. Sì, è probabile, io se non lo so con certezza, però... Questo non saprei onestamente, su durante il periodo fascista... Sì. Non voglio Lipari, dalle uniformi. Lipari, sì. La Asinara onestamente non saprei. Questo non lo so. Beh, tendenzialmente, naturalmente si presta, non sorprenderebbe. Io so per altri studi che sulla Asinara, prima di questo episodio qua, alla Asinara arrivarono i deportati libici della Libia durante la guerra della Tripolitania, insomma, dell'11, anche sulla Asinara, oltre che su altre isole. Ovviamente l'isola ha una conformazione geografica che permette di farne un carcere naturale, insomma, non è che... Ma la terra è relativamente vicina, non è che sia così. alla Sinara io sì, no, sì, è relativamente sì, vicino. Sì, insomma, sì. Se uno vuole mettere da Stintino da Porto Torres si raggiunge con molta facilità. Sì, sì. Sì, sì, insomma, non so se a nuoto. Beh, no, a nuoto. No. Non so se a nuoto la farà. Abbastanza vicino, ma e comunque era popolata fino alla fine dell'Ottocento, come ricordava, sì, sì. E poi a un certo punto vengono tutti i cittadini, vengono tutti trasferiti a Stintino, insomma sulla Sardegna, e quella diventa una stazione sanitaria, a sud e a nord una colonia penale, quindi in uso al governo italiano in tutto e per tutto. Sì, le due figli di Dire Selassie, entrambi vengono deportati lì dopo la guerra d'Etiopia. Sì, sì. Selassie, il Negus. Sì, sì. Sì, sì. Sono lì. Sì, e poi anche Raffaele Cutolo e Totorino, insomma, dopo più tardi, perché poi dal 60 viene fatto il supercarcere e insomma. Anche Borsellino e Falcone hanno, per motivi di sicurezza, sì, sì. Ma non solo, quando erano in particolare periodo di minacce, che insomma è un periodo che li ha accompagnati per lunga parte della loro vita, no. Quando la cosa si faceva particolarmente pressante venivano trasferiti sulla Sinara mm. Perché è un luogo inattaccabile, insomma, tendenzialmente. E da che anno è che eri ricalpestabile, perché non si poteva fino al 99 non si poteva mettere praticamente, non è molto che esiste il parco, 10 anni fa fino a 10 anni fa per 110 anni praticamente solo autorizzati potevano metterci piede, e insomma oggi è un po' diverso, oggi si riesce a visitarla. L'ossario. Sì, sì, l'ossario che è stato eretto naturalmente, è stato realizzato successivamente alla guerra, l'ossario appunto austro-ungarico. C'è anche ancora, è stata invece ristrutturata di recente la cappella che avevano invece costruito materialmente i prigionieri durante la loro permanenza, una piccola cappella a Cala Reale, appena si arriva a sud dell'isola. E poi ci sono però segni un po' in tutta l'isola effettivamente, ci sono resti di monumenti, ad esempio, che loro avevano realizzato per ringraziare del salvataggio rispetto alla marcia della morte, no? Poi in realtà i mesi successivi avrebbero rivelato un'altra drammatica realtà per loro. C'erano i resti del cimitero, ovviamente, ma chiaramente non dobbiamo immaginare, ad esempio, che nel cimitero vennero sepolti tutti i morti, perché ci sono appunto le testimonianze dei nostri militari che dicono che all'inizio scavarono delle fosse, ma non solo, addirittura accatastarono questi corpi, li bruciarono, ma scrivono che non avevano neppure petrolio a sufficienza per bruciare tutti i cadaveri. Calce. Quindi, insomma, era una situazione così. Calce. Fosse comune coperta da calce. Assurda. Nessuno aveva mai parlato di tutta questa... Non ce n'era, come dire, non è proprio una pagina positiva per quel che riguarda l'esercito italiano, soprattutto il governo, insomma, esatto, italiano dell'epoca. E quindi viene chiesto a questo generale Ferrari di scrivere questo diario, ma è veramente un diario completamente autocelebrativo. Tra l'altro Ferrari non era neppure sull'isola quando arrivano questi militari, diventa comandante solamente a metà gennaio, quando già l'epidemia si era diffusa, quando già insomma tutta una serie di problemi si erano evidenziati. Lui quindi scrive questo diario, a tratti oserei dire anche farneticante, perché poi è smentito, perché poi l'archivio di Stato, lui cita ad esempio le relazioni dei nostri sanitari, no? Ma le cita in un certo modo. Poi invece all'archivio centrale dello Stato ci sono gli originali delle relazioni in cui dicono chiaramente, ad esempio Ferrari sosteneva che questi qua bevessero l'acqua del mare o l'acqua piovana nelle pozzanghere perché erano semplicemente dei barbari, no? Cosa folle. Quando i nostri invece sanitari ogni giorno mandavano dei telegrammi a Roma dicendo guardate qua se non arriva l'acqua siamo veramente alla catastrofe. E quindi insomma chiaramente non c'è mai stato un contraddittorio, ovviamente. E quindi quella è stata la versione ufficiale che è arrivata almeno fino a quando col libro non si è riuscito un po' a ricostruire questo complesso mosaico, cercando di stare attenti di offrire tutte le voci. Il libro non parte ad esempio dall'ottobre 1915, ma parte dall'estate del 14, perché non mi sembrava giusto partire dando l'impressione che questi prigionieri fossero esclusivamente delle vittime della guerra, ma a loro modo erano stati anche dei carnefici nell'estate precedente. E ho voluto anche ricordare i civili serbi, il loro salvataggio, perché questi 100.000 civili a seguito dell'esercito erano anche loro una vittima della guerra, no? Costretti a abbandonare le loro case, voi immaginate, a scendere verso la Grecia, insomma, è come se una nazione viene completamente trasferita altrove, perché la Serbia era una nazione di poco più di 1 milione di abitanti, se non si fa riferimento alla Macedonia, quindi alle conquiste dell'ultima parte delle guerre balcaniche, quindi davvero un piccolo regno. No? A, viene... a piedi, valicando passi come elevati. Come ha conoscenza di questa situazione e chi, che cosa l'ha spinto a scrivere il libro? La scoperta è stata del tutto casuale, perché è stata, ho recuperato appunto nel fondo della Prima Guerra Mondiale, c'è una parte di documenti denominati censura militare all'archivio. All'archivio centrale di Stato di Roma, e ho ritrovato la lettera tradotta di un medico, di un ufficiale austriaco che si era salvato sull'Asinara, che nell'aprile del 1916 scriveva a Vienna, una sua conoscenza, una lunga lettera che era una sorta di rapporto dettagliato di quella che era stata la sua odissea. Da lì pian piano, e all'interno appunto di questo fondo della censura militare a Roma, c'era lo stralcio di questa lettera tradotta. Quindi in maniera casuale da lì ho cercato appunto all'archivio segreto vaticano, stato maggiore dell'esercito, la marina militare, soprattutto le testimonianze dei superstiti, facendole tradurre, perché si tratta di documenti ungheresi, documenti cechi. Alla fine il puzzle si è ricostruito e diciamo, abbiamo fatto luce su una vicenda che può apparire insignificante, ma secondo me è decisamente esemplare rispetto ai meccanismi che dicevo prima della politica estera, della diplomazia, cioè i prigionieri venivano considerati veramente una merce, dire carne da macello, insomma, sostanzialmente. Tra l'altro gli italiani consideravano così i propri soldati in mano agli austriaci, a maggior ragione consideravano gli austriaci in mano propria. In sostanza, senza voler condannare anche quello che è stato il nazismo, ma cioè le marce della morte in Polonia, in Bielorussia, i prigionieri nei campi di concentramento, sprofondati nella neve fino qui, insomma i nazisti non hanno inventato niente. No, ma guardi, la Prima Guerra Mondiale è stata un'incubatrice. Il Lager non è inventato Hitler, perché già io ho letto un libro dei Lager dei Savoia. A danno dei soldati del Regno di Napoli dopo aver conquistato, cioè Garibaldi di qua e sì, naturalmente dobbiamo distinguere tra quelli che sono i campi di prigionia e i lager dei campi di sterminio, voglio dire, ovviamente, ma poi alla fine la gente moriva anche nei campi di prigionia, la sostanza nei lager della Val di Susa, da quelle parti erano campi di sterminio anche quelli fatti per uccidere per i soldati del Regno di Napoli. Non hanno voluto giurare al re di Sonia. Giurare fedeltà, insomma. Ma poi il contingente italiano, Valona, è andato solo per motivi speculativi in questo momento. No, certo. Conquiste speculative. Era un calcolo politico. Erano fuori dalla guerra, insomma. Erano fuori dalla guerra, era un calcolo politico, ripeto. Noi pensiamo che l'Albania è entrata in scena con Mussolini e il fascismo. In realtà, già nella seconda metà dell'Ottocento, l'Italia manda insistentemente dei gruppi della marina militare, dell'esercito, a studiare in maniera analitica il territorio albanese per verificare la possibilità un domani di invaderla. Quindi siamo molto tempo prima del regime. Sono tutte speculative. Vediamo i romani e... Non c'è alcun dubbio. Concordiamo. Comunque a scuola purtroppo non lo insegnano proprio in Garibaldi. Mussolini e Garibaldi praticamente. Basta. Forse non insegnano neanche Mussolini, però neanche pure Garibaldi, no, in una certa maniera. Forse quest'anno, perché sono i 150 anni, allora tutti si sono concentrati. Le cose bisogna, se le sappiamo, comprarsi libri e leggere, documentarsi. L'armadio della vergogna a Roma, davanti alla fuori. Sa, la vicenda dell'armadio della vergogna è una vicenda che pesa molto. Pesa molto, credo, sulle autorità militari italiane. Come penso che pesi molto anche al governo russo, dopo che hanno aperto l'armadio del KGB, che Stalin ha voluto dare la colpa ai tedeschi della strage di Katyn, ma alla fine hanno trovato che l'ordine firmato da lui. Sì, sì, ma appunto, sa, molto spesso, come in questo caso, cioè se si va in archivio, si ha la fortuna di trovare dei documenti, li si mette assieme, li si fa parlare, li si sottopone ad un'analisi, poi in realtà emergono anche delle verità forse che non coincidono proprio con le ricostruzioni precedenti, però insomma questo è un po' il lavoro degli storici, no? Che i documenti d'archivio dovrebbero essere un punto di partenza. Io pensavo che i lager e le marce della morte fossero solo opera dei nazisti, ma... No, ma c'è, ma bisogna andare indietro. Sì, la grande differenza che vedo io, almeno personalmente, è che con il nazionalsocialismo è diventato una pratica da propaganda. E quindi c'era qualcuno che lo faceva vantandosi di farlo, e che è essenzialmente differente da chi lo fa nascondendolo. La propaganda si tratta di nascondere. Insomma, il popolo tedesco non sapeva cosa succedeva nei lager. Però spariva il commerciante, prima socialista, poi quello comunista, poi quello ebreo, insomma, sparivano. Guarda, c'è un bel libro, il titolo è Come si diventa nazisti, di Allen. C'è un bellissimo libro che il titolo è Come si diventa nazisti, di Allen. È un piccolo volumetto che credo, non so se viene ancora pubblicato, ma mi pare la traduzione appunto dell'Einaudi, ma dove descrive come in un piccolo centro della Germania, una città, insomma, no? Quello che dice lei, come i tedeschi, anche il tedesco medio, comune, è diventato appunto un valido supporto, magari inizialmente anche involontariamente, a quella che era poi la strategia di Hitler, quindi la persecuzione degli ebrei, la denuncia del vicino di casa che dichiara idee contrarie al nazionalsocialismo, quindi, come ripeto, in un piccolo centro dove tutti si conoscono, dove c'è una vita apparentemente tranquilla, e il nazionalsocialismo riesce a sovvertire l'ordine dei rapporti tra le persone. Tanti tedeschi che non sapevano. No, certo, non si può fare un'accusa al popolo tedesco, ma non si può neppure dire che tutti fossero all'oscuro di quello che stesse accadendo. E comunque un'altra grande differenza è che fino a prima del nazionalsocialismo parliamo di poveri vittime della guerra in quanto militari e persone mandate a combattere. Con il nazionalsocialismo parliamo di civili, è la popolazione delle case che viene presa, certo, e messa sui treni, insomma, è la cosa. Sì. I civili entrano in scena. Sì. Venivano qui alla stazione di Bolzano e bisognava buttargli l'acqua sopra sul vagone per far bene. Cioè, è difficile non rendersi conto, no? Ma la gente se l'è domandato qua da queste parti, cosa ci facessero tante cose erano nascoste. E anche quelli di Arezia. Quindi mi sembra strano che poi da altre parti non se ne sia resi conto. Vedevano sti campi ma non sapevano cosa dentro fare. Sì, questo sì. Questo è uscito. Arrivavano treni e treni di persone, appunto. Non uscivano e non ne usciva più. Nessuno si domandava. Come facevano a starci tutti a Auschwitz? Scusa. Cioè, dalla memoria lisica che abbiamo, per esempio, la gente che abitava nelle semi rurali in Galesia se ne erano ben resi conto di quello che stava succedendo, perché andavano a portarli da mangiare. Però so che ci sono tanti tedeschi. Quelli scappati, i russi scappati da Mauthausen, sono stati riconsegnati al campo di Mauthausen dai civili che abitavano attorno a Mauthausen. Sì, perché poi tra l'altro Mauthausen, a differenza di Birkenau, dove i treni arrivavano, Mauthausen invece si fermavano prima e venivano poi trasferiti, no? E quindi insomma c'era un impatto diretto tra quelli che era il civile tedesco, il prigioniero italiano nella prima guerra mondiale, perché poi Mauthausen è sempre stato un campo molto frequentato dagli italiani, sia prima che durante la seconda guerra. Invece Birkenau, chi c'è stato, insomma, però anche lì. Fa un certo effetto, no? Vedere questa rotaia che entra, questi treni che arrivano di continuo e che nessuno insomma si accorga di quel che accade. Pure non volevano. Non volevano vedere, forse. Non volevano, forse. Questo può essere. Sì. Non volevano credere a tanta, no, violenza, forse. Sì, erano stati occupati. Quelli che c'erano? Violentemente. Erano obbligati a non vedere, a non capire, a non parlare, questo non lo so. Diciamo che una volta di più si dimostra in questo modo che è importante documentarsi, no? Esatto. Forse una propria opinione, vivere in un sistema libero dove anche le biblioteche possono dare un contributo per conoscere. Dico, invece propaganda alla biblioteca. No, però appunto, come Luca Gorgolini e anche Vania Zappetti hanno sottolineato, gli archivi sono il punto di partenza per il lavoro dello storico. Di fronte al documento non ci sono tante discussioni da fare, no? La firma di un decreto, un atto, certo, e una serie di registri parlano chiaro. lo storico deve avere gli strumenti, la voglia, il coraggio di riportarli fuori, di esporre la storia così com'è stata e fornire a chi ha voglia e anche alle scuole la possibilità di venire a conoscenza di certi aspetti che sono rimasti nascosti. Questa sera è stata una delle occasioni che abbiamo avuto con Luca Gurgolini di conoscere questi aspetti, ecco. E si spera che ce ne siano anche altre, no? Anche se a distanza. Volevo chiedere ancora una cosa, esiste uno studio sui prigionieri taitini, austro-ungarici, perciò fatti prigionieri dagli italiani? Allora, perché io ho un episodio dei miei vecchi, che mio nonno era prigioniero Isernia. A un certo momento mia mamma era Isernia profuga, si è vista venire incontro un uomo, ha preso paura, è corsa verso la baracca dove era sua mamma, dicendo mare, mare, che nonno mi vendrì io. E lo salta alla porta e dice, ma non te vedi che l'hai tuo padre? Poteva. Era scappato da un campo di concentramento ed era talmente riconoscibile che mia mamma aveva preso paura. Certo. Allora perché finita la guerra gli italiani hanno continuato a tenere prigioniero i trentini in lingua italiana? Erano diventati italiani per un momento, no? Ma il confine era diventato Brenno. Non è una cosa che scatta dall'oggi al domani, soprattutto per chi deve gestire. Esiste una storia su questa, sulla sorte di questi prigionieri, no? No, una storia scritta no. Io so che ad esempio al Museo Storico di Trento sono state fatte almeno un paio di conferenze nel corso degli anni, proprio sui trentini all'Asinara. Sì. C'è questo Giovanni Terranova che è uno studioso appunto locale che ha ricostruito. Per il resto invece guardi, proprio in generale sui prigionieri austriaci tenuti dagli italiani non c'è praticamente nulla. C'è il libro di Alessandro Tortato che è uscito qualche anno fa, appunto Prigionieri, la prigionia di guerra in Italia. E poi adesso questo libro che parla di un episodio, ma per il resto non se ne è mai parlato abbastanza, ma vuol dire, le responsabilità non sono solo le parti italiane. Cioè dopo la prima guerra mondiale l'Austria ha un po' voluto rimuovere quella che è stata la vicenda di una guerra che comunque aveva significato sostanzialmente la fine del grande impero, no? E quindi anche da parte austriaca non si è coltivato, da parte italiana solo recentemente questa cosa è venuta avanti e fortunatamente oggi ci sono in Italia tanti centri che raccolgono diari e memorie della prima guerra mondiale, penso all'archivio di Pieve Santo Stefano, penso all'archivio della scrittura ligure diretto da Antonio Gibelli a Genova, o penso appunto a Rovereto, penso al Museo Storico di Trento, però ecco, non è da tanto che se ne parla, per le ragioni che abbiamo detto all'inizio, che questa è una pagina che gli italiani tendono a mettere un po' da parte. Sì, sono rientrati in Trentino poi attraverso l'America, no? Bene, io allora ho avuto il compito di aprire, mi prendo il compito di chiudere anche. Ringrazio tutti quanti per la presenza attiva, tra l'altro. Si diceva se alcune cose non si imparano a scuola e si imparano in altre occasioni, il nostro compito è farlo sapere agli altri, perché a questo punto siamo diffusori di cultura in primo luogo. E mi complimento ulteriormente con un'unica cosa che ancora non avevo detto e ci tenevo a dirla. Il libro è bello da leggere, ha un argomento che è molto interessante di per sé e anche dal punto di vista, come dire, tecnico è scritto in maniera assolutamente irreprensibile, perché mischiamo la memorialistica, i documenti privati, i diari, le lettere, tutto quello che è, con una verifica a doppio filo con i documenti ufficiali, quindi non se ne scappa, cioè quello che c'è scritto è vero, è storicamente vero, e non si può dire di tutti i libri di storia sempre con facilità. In questo caso siamo sicuri che è un libro di storia che documenta un episodio e che vi invito caldamente a leggere, perché insomma è un qualcosa che vale la pena fare. Vi ringrazio. Grazie.